Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. L'immagine simbolo di oggi non poteva essere che Babbo Natale, il simbolo di congiunzione fra sofferenza e riscatto, fra crisi e occupazione. Anch'io una volta sono andato a letto con la sorella di una mia fidanzata ed ero ai formelli, io non ho resistito. Sei perfido. La durezza della vita è anche oggetto di questo programma. Siamo fottutamente depressi dal punto di vista demografico. Prendendo delle gocce di Cipralex. L'incarnato di Berlusconi ha la stessa, diciamo, tonalità di certe perette per la valle vaginale. Però non è possibile, veramente sarebbe la morte della democrazia. Sì, parola tremenda. Si chiamavano panzane, bufale, ho capito, perché ora le hanno chiamate fake news e sembra che sia un'emergenza nazionale. Le vere fake news sono la stragrande maggioranza dei giornali e dei telegiornali italiani. Addirittura? No. Ai tempi miei, diciamo, l'alluvione si chiamava alluvione, adesso si chiama bomba d'acqua. È un inferno in terra perché li fa impazzire ogni giorno con la giungla più fitta, quella della tenebra infernale. Ma io mi fido di tutti. Mandiamolo a fare il cronista da Maria la Nostra. È il fondamento di ogni fede. Esatto. Credere al di là del reale, perché solo così si può chiedere qualcosa in cambio. Questo poeta mi legge nella mente, ha capito qualcosa di me. Chi la spara più grossa? Reach out and touch me. Eccoci, popolo dei già svegli, buongiorno. Allora, questa mattina a Milano per lavoro mi sono svegliato presto in un albergo. Ho provato a uscire, ero chiuso dentro e mentre riflettevo su questo paradosso, perché il portiere forse era andato a fare qualche commissione, ho pensato a quanto volevo essere qui e a quanto questa giornata era piena di cose interessanti. Un passo avanti nella giornata, un passo avanti per tante vite, un passo avanti per tante polemiche, un passo sul Milan che cambia allenatore, un passo nel baratro, nel nulla, una barista di Porto Torres, una donna, un'altra donna che si uccide perché colpita dalle molestie di un video hard che lei ha voluto girare ma poi è diventato un'arma contro di lei. Il passo avanti del generale Gallitelli che Berlusconi lancia senza neanche aver interpellato alla guida della Repubblica. Tanti passi avanti che voglio commentare insieme a Flavia Fratello. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Collega della Sette, volto infaticabile di molte albe, di tante rassegne stampa. Anche tu sei così abituata a svegliare il mondo, no? I tuoi ascoltatori e dirgli che cosa accade. Allora, Gattuso, più tardi, alle 7, ma insomma, va bene. Gattuso, Gallitelli, che cosa, o Meghan, che cosa ti ha appassionato oggi? Meghan, ovviamente. Perché no, oggi c'è questa altra grande. In realtà ci riflettevo, dico, guarda, gli inglesi, cioè, geniali, che come sai, no, non a caso la chiamano la ditta, la famiglia reale. Allora, in questo momento in cui l'Inghilterra sta andando benissimo, no? E hanno dei problemi, il governo, la May, la Brexit, che è insomma un disastro, eccetera, eccetera, che cosa si inventano questi? Si inventano una doppietta micidiale, la gravidanza di Kate, che partorirà ad aprile, quindi ovviamente porterà attenzione, turismo e giro d'affari, e poi addirittura il matrimonio reale, perché è vero che è sesto in linea di successione, però è sempre un matrimonio reale, è sempre il fratello del futuro re, lei poi ha un background, diciamo così, molto interessante, che alimenterà sicuramente tutte le riviste di gossip e non, e quindi questo porterà altra attenzione, altra gente, altro giro d'affari in Inghilterra, e questo insomma è il contributo che può dare la ditta alla causa, ma non è un contributo da poco, quindi sono veramente bravi. E allora entriamo nel fritto misto del giorno con la nuova apparizione, ormai sembra un'icona scioccante, il passo avanti di Domenico Spada. One step dice di essere stato pagato per andare in televisione, ma questo è nelle regole del mondo dello spettacolo. Ha postato un video su Facebook e irride addirittura il giornalista. Come devo dire che non mi pagano? Cioè, prendete conto, io devo dichiarare che non mi pagano. Purtroppo questa è la verità, ragazzi miei, però non lo dite a nessuno che mi pagano. A me mi pagano, ma non lo devo dire, avete capito? Mi raccomando, anche voi, non fate la spia, non lo dite. Questo personaggio, prima da Formigli, poi a Non è l'Arena, ha questo sorriso, quest'aria, come dire, di io so, io dico, io faccio, io alludo. È un personaggio italiano. Che dici, Flavia? Un personaggio orrendo personaggio italiano. Cioè, stiamo avendo a che fare con dei mafiosi. Noi evidentemente forse non ce ne rendiamo così conto, ma perché credo che non ci sia ancora l'esatta percezione di che cosa significhi mafia, anche se è a Ostia, e quindi noi pensiamo che in realtà quelli siano dei coatti, come dicono i romani, sì. Quindi, ecco, solo un pochino più aggressivi di quanto non sia normalmente un coatto, invece no, non è quello. Allora io dico, provate a immaginare se invece che chiamarsi Spada, questo signore, si chiamasse Rina o Provenzano, e se sapesse che magari ha appena sciolto nell'acido un ragazzino, perché non è che poi i loro metodi siano tanto diversi da quelli dei loro omologhi siciliani. Quelli del clan magari... di sicuro, voglio dire, Domenico... ha una sua storia ovviamente giudiziaria tutta personale. Alemanno contestato all'autogrill perché fascista. Ritornano, come dire, gli spettri degli anni 70. Aveva incrociato all'autogrill un pullman, una gita di quindi un gruppo radicalizzato di sinistra. Lui ha replicato addirittura dicendo: sono 40 zecche, non pensavo che esistessero ancora. Minniti sui diritti umani in Libia. Senti, Flavia. Soprattutto una cosa sulla quale dobbiamo lavorare tantissimo è per cambiare le condizioni inaccettabili dei centri di accoglienza in Libia. Quello è il cuore. E tuttavia l'unico, diciamo, limite che io vorrei che condivissimo insieme è che tutto questo non deve portare a rinunciare a governare i flussi migratori. Vedi che c'è ancora polemica sui flussi, e io però devo dirti che ormai sono ipnotizzato dalla sindrome di Crozza, ascolto le sue pause, la sua voce, e sono ipnotizzato. Non che è dici? Colpa di nessuno se tutti gli italiani vedono me un profeta. No, vabbè, adesso non... Un messia sceso in terra per la prima volta! nel caso sarebbe la seconda, eh. Sì, ma lei si riferisce a un tizio il cui padre non era un generale dell'aeronautica. Ma no, il mio vale di più. Il padre generale vale più del padre falegname. Che dici, Flavio? Che comunque il grande Spada, no, a proposito delle zecche, vabbè, dai, non se ne sono mai andate, è una contrapposizione alla quale noi non vogliamo assolutamente rinunciare, anzi, mi viene in mente l'intervista che è stata fatta proprio la settimana scorsa a Padoan, la prima domanda era: ma lei si sente di sinistra? E lui sì, c'è ancora, è fondamentale ancora farsi un'analisi del sangue e vedere il nostro grado. Vabbè, però Padoan, no, non vorrei associarlo neanche lontanamente a una zecca, voglio dire, zecca no, è un termine dispregiativo che nella lingua della politica alle accuse sì. della Camusso, no? Che gli ha detto sì, ah, hai fatto questa cosa sulle pensioni che non è di sinistra, che non è, e lui invece la prima cosa che quindi ha dovuto fare, ha voluto fare nella sua intervista, era mostrarci l'analisi del sangue e farci vedere che no, per carità, anche lui è di sinistra, cioè, qui stiamo ancora, se no non ci sarebbero poi tutte le divisioni che ci sono, e come succede a sinistra succede in misura molto minore anche a destra, ma insomma anche allora lì. Ti dicevo che il generale Gallitelli è un po' il caso del giorno. Ieri proprio ai nostri microfoni Salvini ha detto: ma quale generale Gallitelli? A me neanche mi ha informato, non ne so nulla, dubito che possa essere il candidato, dubito fortemente. E un commento, hai visto come Gallitelli è stato zitto, sì, questa volta, zitto, non ha zitto. Detto niente. Ma quello è nell'arma, mica. Allora prendiamo spunto da questa dichiarazione di Specchia proprio a Omnibus e dimmi che cosa ne pensi tu. La cosa di Gallitelli secondo me è un bluff, cioè Gallitelli, che è un bravissimo investigatore, è stato un grande comandante dei carabinieri, ha un problema che è estremamente legato alla poltrona. Ecco, qua ti voglio, cioè nel senso che Berlusconi da un lato, presentando uno che probabilmente non si vuole minimamente candidare, come dice Repubblica Oggi, prende l'effetto scia, no? L'immagine, gli ruba l'immagine, geniale. Certo. Infatti è stato zitto, ripeto, l'altra volta quando si era fatto il suo nome per la Regione Lazio, lui immediatamente ha detto no, non c'entro niente, perché stavolta giustamente è stato zitto. E la prossima volta lo candideranno all'ONU. Però è vero quello che probabilmente Berlusconi fa così, no? Cioè non è la prima volta che butta lì un nome. Lui saggia il terreno, vede quali sono le reazioni, vede se la gente gli risponde Gallitelli chi, oppure no. La Santanchè contro gli insulti che riceve. Se io dovessi offendere una persona a dire sei una Santanchè, sai quante volte l'hanno detto? Sai quante volte me l'hanno detto? Vabbè, cosa c'entra? Guarda, mentre parliamo d'accordo. Noi mi è appena arrivato su Twitter, sei una puttana da uccidere, quindi figurati. Ale, a te ti insultano, Flavia? Hai la fortuna. Ha voglia se mi insultano. Ah, bene, allora, davvero, ti insultano molto. Sì, da quando ho cominciato a postare le foto dei materassi abbandonati sotto casa mia mi insultano moltissimo. Prima non lo facevano, però ho capito che non si può dire che Roma è sporca. Viene vissuta come un insulto da soprattutto gli esponenti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Bene, e ce ne faremo una ragione. Orfini sì. Contro il Movimento 5 Stelle sulle fake news, qui ti voglio, qui. Sembra che loro purtroppo facciano fatica a rinunciare a una modalità che li ha molto aiutati. Più che altro penso dovrebbero chiarire le cose piuttosto curiose che sono emerse, cioè che questi siti, quelli collegati a Salvini, sono sostanzialmente accomunati in rete, nel senso che hanno la stessa matrice, che la pubblicità arriva agli stessi soggetti. Allora, io qua mi sono letto con molta attenzione i pezzi di oggi, non ho capito una cippa sulle fake news, cioè ci sono dei siti che per acchiappare dei tweet fanno titoli gridati, ma allora metà del giornalismo italiano dovrebbe finire in cella. Sì, è questo. Pronto? Sì, sì, vai. Ah, sì, no, questo è verissimo. In più c'è la scoperta, no, che è un po' la perdita della verginità, per cui se tu clicchi su un sito fai guadagnare questo sito, no? Che è strano, è pieno di pubblicità, chissà come sopravvive, certo che vive così. Dopodiché è vera una cosa, che cioè, pensare di governare, dominare la rete, stabilendo cos'è la verità è una follia. Senti, una follia. A proposito di news, non so se fake o real, l'onorevole Bernini è finito nel mirino delle Iene. All'aprile di quest'anno ho vinto una causa di lavoro contro l'onorevole per ingiusto licenziamento. Il giudice lo ha condannato a risarcirmi di tutte le mensilità pari a 65.000 euro, ma l'onorevole ha deciso di non rispettare la sentenza. Io ad oggi non ho ancora visto un euro, non ha pagato. E quando siamo andati a pignorare lo stipendio abbiamo scoperto che c'è una legge del 1965 che prevede l'impignorabilità per lo stipendio dei parlamentari. La cosa allucinante è che il Movimento 5 Stelle, tramite il senatore Buccarella, ha presentato una proposta di legge per abrogare questo insopportabile privilegio della casta, di cui però l'onorevole Bernini ancora oggi si avvale. Quindi è un deputato del 5 Stelle protetto in questo caso rispetto a una sentenza da un privilegio della casta. Capita i paradossi che... Del resto, scusa, ma non abbiamo sempre detto che abbiamo i rappresentanti politici che ci meritiamo e che ci rappresentano perché sono uguali a noi? E ti risulta che i debitori italiani siano così rapidi e solerti nel pagare il dovuto? No, quindi... Allora, la Raggi risponde proprio a te sui materassi, quasi, guarda, difende i risultati dell'AMA. Noi stiamo, come dire, correndo ai ripari dopo anni di inerzia che ha visto sostanzialmente AMA conferire supinamente tutti i rifiuti a Malagrotta senza dotarsi di impianti. Direi che stiamo iniziando a lavorare. Vedi, ha risposto a te. Stiamo iniziando nel senso che, cioè... si sono alzati, hanno guardato il tabellone, hanno detto... No, vabbè, ma sei disfattista. Prova a mettere mano in una bolgia dantesca come quella dei rifiuti a Roma. Camilleri agli studenti. Io non lo farei mai. Dopodiché non gliel'ha ordinato il medico a questa signora. Vabbè, okay? Certo. Se l'è presa lei la responsabilità. E ovviamente nessuno dice niente dopo 1, 2, 3 mesi. Dopo un anno e mezzo magari ti aspetteresti un piccolo segnale. È vero, però sono difficili l'eredità del passato. Difesa, che io mai avevo visto una comportamento anche così incivile da parte dei romani. Io ho cominciato a fotografare i materassi perché improvvisamente sono comparsi i materassi, prima non c'erano. Si va a Roma, si va come per le piaghe d'Egitto, prima i frigoriferi, esatto. Poi i materassi, esatto. Camilleri adesso, agli studenti. Adesso ho la copia sotto casa. Senti, ancora durissimo sia su Renzi che su Grillo. Siamo noi con le nostre mani che facciamo il nostro futuro, col nostro voto. Partecipate alla vita politica. Non crediate che i Renzi, il 5 Stelle o le altre cose siano dentro la vostra storia. Loro sono già cadaveri, voi teneteli lontani. A Porto Empedocle, dove aveva studiato quasi 100 anni fa, Camilleri, con la sua voce bellissima, lancia questa invettiva. Mi piacciono i grandi vecchi quando non sono buonisti, Flavia, a prescindere dal contenuto. Sì, l'idea che sono già cadaveri, tutto quello che ti pare. Sì, infatti, ecco, possono dire quello che vogliono. E poi non posso essere troppo cattiva. No, a quest'ora della mattina non mi viene. No, non puoi, cattiveria rimangiata. Puoi scatenarti su Rotondi che litiga con Richetti sui vitalizi. Quel buffone di Richetti di cosa dice? Io ricalcolo D'Alema, Bersani. Non voglio dire la frase volgare di voler fare una certa cosa con il posteriore degli altri, ma io credo che sia più corretto all'atteggiamento dei 5 Stelle che dicono caliamoci lo stipendio noi e cala pure la pensione di D'Alema. Ancora si discute di vitalizio. Come me si mangia la lingua. Sì, abbiamo capito però che cosa voleva dire. Senti, ci fermiamo solo un attimo per il traffico, poi torniamo con i già svegli e con Flavia Fratello. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. I già svegli. Luca, la mattina, va bene, quel pezzo della Bruni, ma metti anche i CETEM, qualcuno la mattina potrebbe gradire, giusto? Sono già sveglio, sto andando a lavorare già da tre quarti d'ora che sono in macchina, ma sono sveglio perché avrei una voglia matta di avere chiusa con me in una stanza tutte quelle maestre d'asilo e di elementare che alzano le mani sopra questi bambini, che li urlano, che li vessano. Buongiorno a tutti, sono Silvia, un'insegnante di liceo di Verona. Sono già sveglia e questa abitudine ce l'ho già da 35 anni. Ancora mi alzo con la voglia di vedere i miei studenti. Sono già sveglio perché l'Europa non mi fa dormire. Fai richiami sulle pensioni, sui poveretti, e non fai richiami sull'evasione fiscale e sui corrotti in Parlamento. Sono già sveglio perché credo che nessun pittore e nessuno scrittore sia riuscito a estrarre da una tavolozza o a mettere per iscritto la bellezza di un'alba con i suoi colori, i suoi suoni, le sue armonie. Signori, questo è il momento della grande poesia, eh? Oggi tutte queste testimonianze sono a loro modo poetiche, ma la più bella, è vero che bisogna vedere l'alba perché nessuno la può immortalare, è una bella suggestione, la non riproducibilità come unica frontiera della creatività umana, ma la più bella oggi per me è una professoressa che dice: mi sveglio perché ancora non mi sono stancata di vedere i miei studenti. Flavia, tu perché ti svegli quando non sei di corvée, diciamo? Quando, come in questo momento, guardo il profilo che comincia a diventare più chiaro, il profilo dell'orizzonte, io penso a quando al liceo mi raccontavano dell'alba dalle dita di rosa, rhododactylos, come dicevano i greci, e ogni volta un po' mi commuovo. Mi alzo perché sono curiosa, mi alzo perché sono un'inquieta, mi alzo perché voglio leggere i giornali presto, perché mi diverte sfogliarli, e poi quando sono in onda anche raccontarli a chi mi ascolta. Questo è un grande testamento, devo dire, potrebbe valere per molti come epigrafe di una vita. 0230 22 4492 per rispondere all'alba dalle dita di rosa con la vostra. E torniamo allora nella giungla del contemporaneo. E vi dicevo, ci eravamo lasciati pochi istanti fa con la voce di Rotondi che litigava su Richetti. Albanese, proprio lui, Antonio Albanese, dà una ricetta surreale contro quelli che definisce i gastrofighetti. Mousse di gerbo albino, ingredienti per 4 persone adulte, un gerbo albino, 112 albumi di uova di Pettirossi, 1 litro di succo di limone di Ascoli Piceno, 1 niente di panna frisona, 1 foglio di colla di pesce del Baltico, 1 cucchiaio d'argento di sale dell'Himalaya. Sto cazzo di Himalaya. Vabbè, io quando Albanese imbrocca così, siamo veramente a livelli sublimi. Sto cazzo di Himalaya. Che vendica tutti noi che non ne capiamo assolutamente niente e che quando appunto ci parlano di questi, li guardiamo con l'aria un po' imbambolata. Tutti questi nomi noloci, il limone di Ascoli Piceno. No, risentiamola, ti prego, è troppo bella. Segnatevi la ricetta. Mousse di gerbo albino, ingredienti per 4 persone adulte, un gerbo albino, 112 albumi di uova di Pettirossi, 1 litro di succo di limone di Ascoli Piceno, 1 niente di panna frisona, 1 foglio di colla di pesce del Baltico, 1 cucchiaio d'argento di sale dell'Himalaya. Sto cazzo di Himalaya. Di che ce l'hai anche tu il sale, Flavia, no, che anche tu sei un po' gastrofichetto. Me l'hanno regalato, no, ma ce l'hai il sale dell'Himalaya. Di distinguerlo da un sale normale, no, cioè proprio. Quindi usi il sale dell'Himalaya, sei nel club degli stellati, sei con Parenzo che si fa fare il vestito a Napoli. Ma perché ti fanno questi regali appunto, pensando... Ma sanno chi sei, non è che lo regali a tutti, a me non me l'ha regalato nessuno il sale, a me mi danno il pepe, quello tritato, le spezie per l'arrosto, capito? Vabbè. Parla, questo è un tema serio. Una delle madri dell'asilo di Vercelli, dove volavano ceffoni e insulti, purtroppo. Erano tutti in mensa e la maestra incita un'altra bambina a dare uno schiaffo secco, come l'ha definito lei, a un altro bambino. E quella era mia figlia. Ti rendi conto? Questa è la sofisticatezza, perché anche in un asilo c'è il potere. Sì, ci sono i giochi del potere. Luca, incitare una bambina a schiaffeggiare un'altra bambina, ma terribile, siamo... terribile. Mi ha ricordato quello che succedeva, i racconti di chi era nei campi di concentramento, e diceva che appunto venivano loro usati per a loro volta colpire gli altri. Ma ti devo dire una cosa su questo episodio, perché c'erano una serie di video, no, che sono stati girati grazie alle telecamere nascoste dagli investigatori. E noi vogliamo bene i carabinieri quando piazzano le telecamere negli asili, sì, e li beccano tutti. Questi video ci sono stati mandati in redazione e io l'ho visto praticamente la mattina stessa, prima che ancora gli altri giornali ne parlassero, insomma. A metà ho dovuto interrompere. Era tale la portata della violenza di quelle scene, ed era per quanto uno, no, cerchi comunque di avere freddezza, di dire ma insomma non è detto che io stia vedendo esattamente ciò che mi sta mostrando la telecamera, ormai ci stiamo abituando fortunatamente anche a ragionare in questo modo, no? E non dare per scontato che ciò che ci viene mostrato è veramente ciò che sta succedendo. Ma nonostante tutto quello che ho già visto nella mia vita, io ho fatto fatica a finire di vedere quel video. E beh, certo, e quando la violenza è sui minori è sempre insostenibile. Sì, così, allora così ti inseguono anche veramente... qui, perché noi non nascondiamo niente, dei messaggi di insulti per la vicenda dell'amo, ormai la tua croce. Io ieri in 10 minuti ho buttato nell'isola ecologica il lama, se la gente butta per strada è colpa loro, ha ragione Maurizio. Però non è che la raccolta differenziata dei rifiuti a Roma può essere una battaglia ideologica, cioè se uno ti fa raggi ti fa anche ama, ecco, questo voglio dire. Bisognerebbe essere laici: se Roma è sporca, Roma è sporca, poi si prova a capire perché, non è colpa di qualcuno, quindi se io sto con qualcuno gli voglio bene. Qui arriviamo al tema dei temi, l'esonero. Guarda, sarò brevissimo. È evidente che la prima colpa è di chi butta il materasso per terra. Se però il materasso per terra ci resta oltre i 4 giorni, io chiedo anche a Ama di venirla a raccogliere. Ma giustissimo, ecco. E allora, poi non è che dobbiamo pensare che sia colpa di Raggi se Ama non viene, ecco, magari molto alla distanza. E Montella riceve il tapiro per l'esonero dal Milan, e qui siamo in una grande tragedia collettiva, eh? Lei, dico, Vincenzo Montella, ha fatto bene, ha fatto male Milan, è colpa dell'allenatore o dei giocatori? Sempre colpa dell'allenatore. Sempre. Perché ha le spalle larghe. No, viene pagato anche per questo, quindi va bene così. Gattuso, la storica bandiera milanista, e nei momenti di crisi, questo supera i confini del calcio, si torna alle belle bandiere, sempre Flavia, eh? Sempre. Io di calcio non so praticamente niente. No, però Gattuso te lo ricorderai. Se vuoi ti posso dire che da piccina ero milanista, perché essendo nata a Milano e vivendo a Modena io me la scialavo moltissimo, ignorando completamente che anche l'Inter fosse una squadra di Milano, per dire, no? Allora, in un momento in cui questa società del Milan dopo è divisa fra la Cina e l'Italia, torna alla bandiera e prende in mano tutto lui. Grazie Flavia, giornale radio, grazie mille, cura i tuoi materassi, ti richiameremo presto, e noi ci sentiamo subito dopo per la super rassegna.